Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di due personaggi della storia, anzi più delle favole direi. Parliamo di Frankenstein e del Principe Azzurro e ne parliamo con Fabio Corsico. Buonasera Fabio Corsico. Buonasera a lei. Fabio Corsico è direttore delle relazioni istituzionali e sviluppo del gruppo Caltagirone, è stato capo della segreteria del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ha scritto con Paolo Messa questo libro che è Da Frankenstein a Principe Azzurro, ma il sottotitolo spiega poi il mistero di questo titolo, le fondazioni bancarie tra passato e futuro. Come è venuto in mente questo titolo, Fabio Corsico? Devo dire, il titolo è venuto in mente al coautore, a Paolo Messa, e nasce da una frase che ha amato nel 90 quando fece la famosa legge in cui di fatto le casse di risparmio conferivano a delle banche le loro quote e vennero create così le fondazioni bancarie, che erano gli azionisti di queste banche, le definì dei Frankenstein, ossia dei soggetti misto pubblico-privato. Principe Azzurro perché, che è un po' la tesi del libro, perché se Frankenstein erano quando sono nate, col passare degli anni, ormai sono oltre 20 anni, si sono trasformate in un Principe Azzurro, sono riuscite in qualche modo a vincere la loro sfida, nonostante le mille difficoltà, i problemi anche del paese, sono riuscite a garantire al territorio dove operavano in qualche modo una redistribuzione del reddito e sono riuscite in qualche modo a garantire una stabilità al nostro sistema bancario. Ecco, quindi delle istituzioni che sono nate recentemente, sono date appunto nella finalità di dare stabilità al sistema bancario, ma anche di riconoscere una certa autonomia alle vecchie casse di risparmio che erano molto legate al territorio. Assolutamente, tant'è che le fondazioni hanno quasi tutte di fatto nei loro statuti una redistribuzione del reddito, dei dividendi che provengono in primo luogo quando sono nate dalle partecipazioni nelle banche, poi successivamente quelle più brave si sono anche diversificate in assicurazioni, in utilities, in obbligazioni, come qualunque buon padre di famiglia dovesse investire, vengono in qualche modo ridistribuite sul territorio in cui operano e sostanzialmente vengono ridistribuite per un 30% nel settore della cultura, per un 15% nella ricerca e in un altro 50% in varie forme in qualche modo di ridistribuzione sempre territoriale. Faccio l'esempio, per esempio, una città come Torino, dove io sono consigliere in una fondazione che è la fondazione CRT, c'è un'altra fondazione molto importante che è la compagnia di San Paolo, che è il primo azionista di Intesa San Paolo, quest'anno spannometricamente verranno distribuiti circa 300 milioni di euro, ecco, tante cose senza le fondazioni oggi, soprattutto anche con la crisi in qualche modo dei bilanci pubblici e dei tagli che gli enti locali continuano a fare, oggettivamente penso non si potrebbero fare. Indubbiamente hanno un ruolo proprio da terzo settore, di sostegno al ruolo anche del welfare con molte iniziative, soprattutto dove sono maggiormente presenti. Però vorrei restare un attimo sul tema bancario, ricordando che questo libro ha un'introduzione di Carlo Azeglio Ciampi e una postfazione di Giuseppe Guzzetti, che è a capo della fondazione Cariplo, che è una delle maggiori fondazioni bancarie. E Ciampi, nella sua introduzione, ricorda che se oggi il giudizio sulle banche italiane è largamente positivo, se le banche italiane sono state solo marginalmente lambite dalla crisi che ha investito in misura più o meno importante i sistemi finanziari dei principali paesi, occorre riconoscere anche il ruolo svolto dalle fondazioni a tutela delle banche partecipate. Ecco, questo è Carlo Azeglio Ciampi. In fondo le fondazioni sono servite anche a garantire una certa autonomia di gestione alle banche, lasciando un po' ai margini i rischi di eccessiva intromissione del potere politico. Diciamo una cosa, le fondazioni in qualche modo hanno funzionato da cuscinetto, perché poi molto spesso uno pensa è la politica che nomina i consiglieri nelle fondazioni. Noi cerchiamo di spiegare in questo libro che non è così, semplicemente con dei dati banali abbiamo preso i 5-6 statuti delle principali fondazioni bancarie italiane e siamo andati a vedere chi nomina in realtà nei vari consigli di indirizzo e successivamente nei consigli di amministrazione a catena i consiglieri, cioè chi in realtà governa le fondazioni. E beh, di fatto la politica, per carità, ha un suo ruolo ed è giusto anche che ce l'abbia, perché poi insomma la politica in qualche modo, se noi o pensiamo che la politica sia sempre cattiva o la politica comunque rappresenta nella democrazia il voto dei cittadini, ma devo dire che i soggetti che maggiormente in qualche modo vanno a nominare gli esponenti delle fondazioni sono quelli che durante la rivoluzione francese, se potremmo definire il terzo stato in qualche modo, cioè la società civile, allora possiamo vedere dalle curie alle università, alle camere di commercio, all'Unione Europea, alla consulta femminile, ecco, diciamo diciamo che si è riuscito a creare in modo virtuoso il più possibile una rappresentanza della società. Poi è sempre più difficile rappresentare interessi in un momento come questo, e quindi probabilmente ci sono anche delle autoreferenzialità, delle asimmetrie, non tutto è semplice, però io penso che, per carità, rispetto a tante altre cose, si è cercato di creare un modo di rappresentare il più possibile trasparente ed efficiente, in qualche modo. Anche perché, come ricorda Guzzetti appunto nella postfazione, in merito al preoccupato allarme sul rischio che le fondazioni possano rappresentare la cinghia di trasmissione per mettere negli organi delle banche i rappresentanti dei partiti, è da sottolineare, afferma Guzzetti, che la normativa dispone la totale incompatibilità tra gli amministratori delle fondazioni e gli amministratori delle banche. Quindi non ci può essere una commistione, uno fa una cosa o uno fa l'altro. Se la politica può comunque incidere nella nomina dei membri delle fondazioni, poi questi hanno libertà di scegliere nelle banche di indicare i nomi anche al di fuori della realtà politica. Quindi funziona questo cuscinetto appunto tra la politica, che comunque deve avere un compito di rappresentanza, e le banche, che devono avere anche un compito di efficienza. Assolutamente. E poi diciamo due cose. La prima, in qualche modo le fondazioni hanno garantito in questi 20 anni una stabilità delle banche, non sono stati azionisti mordi e fuggi, hanno sicuramente preso ottimi dividendi in periodi importanti come sono stati per quelli pre-crisi, ma in questi ultimi 3 o 4 anni invece che scappare sono rimasti lì e sono riusciti a tenere il nostro sistema stabile. Il secondo punto, che è molto spesso oggetto di dibattito soprattutto fra neoliberisti, perché le fondazioni dovrebbero uscire dalle banche perché in qualche modo condizionano l'azionariato? Beh, insomma, le banche a un certo punto, così come ogni società, un azionariato lo devono avere. Allora io mi chiedo semplicemente questo: è preferibile avere delle fondazioni italiane che redistribuiscono sul territorio, o magari dei tanti fondi sovrani che investono le nostre banche, che in fondo cosa sono? Sono delle grandi fondazioni straniere, sicuramente con altre logiche, sicuramente con altri statuti, però di fatto, ecco, diciamo, fra una fondazione italiana e una straniera forse preferiamo ancora una italiana. Certo, anche perché non va dimenticato, come dicevamo all'inizio, che le fondazioni comunque rappresentano il fatto che questi istituti sono nati con un patrimonio che è sorto dal territorio e quindi mantengono in fondo il legame tra il territorio e la banca, che è nata anche con sacrifici da parte degli esponenti della società civile, della società dei territori. Assolutamente, assolutamente così. Un altro problema che secondo me, sulla quale secondo me bisogna vigilare, sarà molto importante, che riguarda il paese ma riguarda anche le fondazioni, sarà il cambio di classe dirigente nelle fondazioni. C'è una norma presente negli statuti dell'ACRI di tutte le fondazioni, tale per cui dopo 2 mandati non si può più essere rinnovabili. Noi rischiamo, e per certi versi è anche giusto, che dopo il 2016 nessun consigliere delle varie fondazioni bancarie potrà più essere ripresentato. Allora, come nasce la classe dirigente delle fondazioni bancarie? Sostanzialmente nasce da amministratori locali di ottimo livello fra la fine degli anni 80 e tutti gli anni 90. Una classe dirigente che era passata attraverso una gavetta, era passata attraverso un meccanismo di classe dirigente che ha garantito, diciamo, sostanzialmente un grande buon senso nella gestione dei patrimoni. Ecco, se in futuro la nuova classe dirigente rischia di essere nominata, così come sono stati nominati gli ultimi 2 parlamenti o una serie di società a partecipazione pubblica, ecco, bisogna starci molto attenti su queste cose, perché poi distruggere qualcosa che c'è stata molta fatica a creare rischia che ci si mette anche poco tempo. Ecco, ma voi nel vostro libro siete fondamentalmente ottimisti che il principe azzurro possa diventare maggiorenne, possa avere anche in futuro un ruolo molto importante all'interno di una realtà che è territoriale ma che poi comunque risponde all'interesse nazionale. Anche se dite forse dovremmo moderare gli entusiasmi, dovremmo orientarli, questi entusiasmi, nella direzione giusta, quello appunto dell'interesse nazionale, ma però concludete: i presupposti per essere ottimisti almeno in questo caso ci sono, direi ottimisti quasi per contratto a questo punto, per difendere una realtà che comunque è positiva all'interno di una società italiana che ha tanti elementi positivi di cui troppo spesso forse stentiamo appunto a mettere in luce. Assolutamente, beh sì, anche perché guardi, poi su questo il presidente Guzzetti lo dice spesso e ha ragione, assolutamente ragione su questo. Noi vediamo le fondazioni bancarie sempre quando c'è da nominare il presidente di Banca Intesa, quando c'è da nominare il consiglio d'amministrazione di Unicredito, spesso per vicende di potere. In realtà l'80% del lavoro di chi opera in fondazioni, non degli organi evidentemente, ma della struttura, delle persone che tutti i giorni vi lavorano, è quello poi in realtà in qualche modo di operare nel sociale, di contribuire laddove lo Stato e le regioni non possono esserci, di poter aiutare nel volontariato, di poter comprare quelle ambulanze nei paesi, dove, negli ospedali dove non potrebbero esserci, di riuscire a restaurare dei patrimoni importanti del paese che probabilmente rischierebbero di subire un degrado. Ecco, le fondazioni poi, perché noi non ce lo dimentichiamo spesso questo, ma il lavoro delle fondazioni è principalmente questo. Certo, in fondo in Italia con questa realtà, e concludiamo qui, potremmo dire di avere edificato quella big society che altri paesi stanno teorizzando, noi l'abbiamo fatta nel concreto, forse senza troppe teorie. Questo di sicuro, questo è sicuro, con una revvertenza e una grande attenzione da mantenere, secondo me. Oggi con la crisi dei conti, sia pubblici a livello nazionale, ma soprattutto con la crisi dei conti a livello locale, bisogna stare attento che le fondazioni non diventino un bancomat, cioè che vadano in qualche modo a sostituirsi sempre a quello che in realtà faceva lo Stato o faceva la Regione o il Comune. Le fondazioni devono riuscire a mantenere la lucidità, non di investire nel day by day, sì, ogni tanto si può fare quando ci sono delle emergenze, ma riuscire per il proprio territorio a immaginare anche investimenti a lungo periodo che in qualche modo sappiano anticiparne i problemi e sappiano in qualche modo dare uno sguardo al futuro. Benissimo, speriamo che il principe azzurro sposi la sposa giusta e possa mantenere appunto questa logica di fondo, di un'integrazione, di una crescita, di un supporto operativo, non invadente ma operativo, anche alla crescita complessiva della società. Grazie a Fabio Corsico, abbiamo parlato del libro Da Frankenstein a Principe Azzurro, edito da Marsilio, Le fondazioni bancarie tra passato e futuro. Fabio Corsico ha scritto questo libro con Paolo Messa. Così come ringrazio Pietro Lacorte in regia, Anita Panizza in redazione. Ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona serata a tutti.